Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Hanno nelle mani la mappa del terrorismo internazionale, decidono chi fa parte della lista nera di Al-Qaeda e come gli stati devono reagire. Controllano i sistemi di prevenzione e ne denunciano i buchi. Sono gli 007 delle Nazioni Unite, i funzionari del servizio di prevenzione del terrorismo, che ora lanciano un allarme sui cani sciolti della porta accanto che sognano di immolarsi nel nome di Bin Laden, come quelli arrestati a Milano. Ma quali sono le armi del diritto contro il terrorismo? Se lo chiede Stefano Betti, funzionario delle Nazioni Unite, in una riflessione per i caratteri della Franco Angeli, e con lui tracciamo un quadro del network di Al-Qaeda, a cominciare proprio dagli attacchi di Mumbai, perché quel gruppo è stato appena inserito nella blacklist dell'ONU. Quello che è successo recentemente in effetti ha colto un po' tutti di sorpresa. Ovviamente questi gruppi che sono emersi dopo le stragi di Mumbai destano molta preoccupazione. Sono stati inclusi recentemente, incluso quattro individui appartenenti all'organizzazione Lashkar-e-Taiba, all'interno della lista di terroristi che è mantenuta dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Questi sono gruppi terroristici ben noti, soltanto che noi alle Nazioni Unite siamo in una posizione un po' particolare, perché non possiamo considerarli gruppi terroristici in senso proprio finché non entrano a far parte di queste liste che si trovano nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Adesso possiamo chiamarli in questo modo proprio perché sono stati inclusi nelle liste, e di conseguenza c'è un obbligo poi per tutti gli stati di congelare i fondi di questi individui, di queste organizzazioni, di certo. Obblighi anche per tutti gli stati di proibire l'ingresso nei loro territori di questi soggetti, eccetera, eccetera, certo. Ecco, lei ricordava questa famosa blacklist delle Nazioni Unite. Da quanti gruppi è composta? La lista delle Nazioni Unite è composta da coloro che si ritengono appartenenti all'organizzazione di Al-Qaeda o in qualche modo legate a Osama Bin Laden e ai talebani. Quindi è interessante notare, secondo me, che le Nazioni Unite non hanno una lista in generale di gruppi terroristici slegati ad Al-Qaeda, ma si focalizzano proprio su questo problema. Quindi il fatto che i soggetti che sono presunti attentatori di Mumbai siano stati inclusi nella lista dell'ONU significa che gli stati hanno ritenuto ci fossero dei legami significativi proprio con Al-Qaeda. Ecco, quindi si tratta di una esatto definire un po' questa lista come di una sorta di monitoraggio del network di Al-Qaeda, quindi sono tenute fuori ogni altra forma di organizzazione terroristica o presunta tale. Esattamente, la lista dell'ONU è composta da attualmente più o meno 600 fra individui ed entità, eccetera. Ci sono stati tentativi in passato, ci sono tuttora, di far entrare in questa lista anche soggetti e organizzazioni terroristiche che non hanno niente a che vedere con Al-Qaeda, ma non c'è consenso a livello globale e internazionale. L'unico consenso che è stato raggiunto finora è quello di includere soggetti legati ad Al-Qaeda. In tanti altri casi, altre organizzazioni terroristiche, separatistiche, attive in altre zone del mondo, non sono incluse per una mera questione di mancanza del consenso a livello globale, diciamo. Quindi non c'è una ragione prettamente di principio, logica, alla base dell'esclusione di questi gruppi, ma c'è alla base l'idea che tutto quello che avviene anche a livello di Nazioni Unite, di Consiglio di Sicurezza, è il risultato del consenso globale, che a volte porta a questi risultati. Immagino sarà il frutto di una serie di veti incrociati, anche perché altre realtà vanno ad incidere su questioni casomai più specifiche, più locali, geograficamente più connotate, appunto, di gruppi di separatisti o piuttosto diciamo di rivendicazioni di altro tipo e non così transnazionali come può essere quella di un network terroristico come quello della sigla Al-Qaeda, giusto? Certamente, è esattamente in questo spirito che il processo decisionale all'interno delle Nazioni Unite avviene. Per quanto riguarda Al-Qaeda e gruppi che comunque si rifanno a questa organizzazione, si è trovato un consenso veramente globale. Ecco, il punto di riferimento di questo monitoraggio e di questa blacklist è immagino la risoluzione del Consiglio del 2001, quella successiva agli attentati delle Torri Gemelle. Quella che lei menziona è una risoluzione molto importante che sicuramente copre, fra le misure che prevede, le attività illecite di Al-Qaeda, ma è una risoluzione che si estende in generale a tutti coloro che sono considerati terroristi, e qui entriamo un po' nel vago. Esistono altre risoluzioni del Consiglio di sicurezza che invece sono proprio più specificamente adottate nei confronti di Al-Qaeda, per monitorare cioè il sistema di sanzioni ONU imposto contro Al-Qaeda e i talibani. E c'è addirittura un comitato delle sanzioni specifico, creato a New York nel Consiglio di sicurezza, che monitora giorno per giorno l'andamento delle sanzioni, come gli stati le adempiono, quanti fondi di soggetti inclusi nelle liste vengono effettivamente congelati, eccetera, eccetera. Ci faccia capire, perché tutto questo per l'opinione pubblica sono dei temi che diciamo sono a metà tra il diritto internazionale e la cronaca che poi appunto volta per volta si ripropone, per lo più ahimè quando ci sono dei fatti cruenti o degli arresti. Ci faccia capire che cosa vuol dire dare una connotazione a dei gruppi. Immagino che comunque per valutare che tipo di attività di prevenzione i singoli stati attuino abbiate delle diciamo informazioni supplementari, mi passi il termine, su ciascuno di questi gruppi che viene considerato inserito all'interno di questo network targato Al-Qaeda. Sono sulla base di schede di intelligence che voi poi operate? E questo è molto difficile da fare, il tema è molto interessante e ci sono agenzie di intelligence a livello internazionale e a livello nazionale che si occupano esattamente di ricostruire un quadro di quali gruppi siano attivi in giro per il mondo, quali siano i loro legami con l'organizzazione di Al-Qaeda e invece altri che non sono direttamente collegati a questa organizzazione, eccetera. Noi all'ONU di Vienna non abbiamo diretto accesso a queste fonti di intelligence che sono abbastanza riservate. Bisogna dire che anche le agenzie di intelligence stanno avendo recentemente molti problemi a capire qual è la situazione del terrorismo internazionale in giro per il mondo, perché si è passati diciamo da un momento diciamo precedente all'invasione militare in Afghanistan, in cui Al-Qaeda era un'organizzazione gerarchicamente strutturata, con vari dipartimenti, un po' come una società per azioni in qualche modo, con a capo Bin Laden che aveva i suoi luogotenenti, eccetera. Si è passati da una situazione così abbastanza chiara, evidente, ad un'altra in cui Al-Qaeda ha cominciato a essere più che altro una nebulosa di gruppi e gruppuscoli attivi in giro per il mondo, che sono estremamente, estremamente difficili da monitorare, perché molti di questi gruppi, tra l'altro, non sono nemmeno legati da alcun vincolo operativo nei confronti dello zoccolo duro dell'organizzazione Al-Qaeda che comunque permane. Si tratta di gruppi che sono ispirati ideologicamente da Al-Qaeda e ne abbiamo una testimonianza anche molto recente con gli arresti dei due cittadini di marocchini qui a Milano. Esattamente, di Milano, che sono stati arrestati con queste accuse di preparare atti di terrorismo internazionale, ma non sembra assolutamente che abbiano un legame diretto con l'organizzazione Al-Qaeda, nonostante loro dicono di appartenervi. E questi individui si ispirano all'ideologia dell'organizzazione attraverso il web. Attraverso il web acquisiscono l'ideologia, si caricano emotivamente, altri gruppi, altri soggetti attraverso internet ottengono istruzioni su come costruire esplosivi rudimentali, eccetera. E quindi, ragazzi, diventa molto difficile capire quali sono effettivamente i legami all'interno di questi gruppi. Si parla della polverizzazione dei gruppi terroristici dell'area del network appunto di Al-Qaeda, ma è possibile in qualche modo almeno avere una idea di quali possano insistere in alcuni paesi o alcune zone? Sì, ci sono sono ovviamente informazioni anche precise che dicono che molti di questi gruppi che trovano ispirazione da Al-Qaeda eccetera sono ben radicati nei nostri territori. Si è passati anche qui dall'idea che questi gruppi fossero operativi prevalentemente fuori dall'Europa, in zone considerate particolarmente calde come Pakistan, il Medio Oriente, ad una situazione in cui ci siamo trovati in casa, nell'Unione Europea, e quindi si è visto che molti cittadini extracomunitari, ma anche cittadini proprio dell'Unione Europea, organizzavano, pianificavano attentati terroristici in pieno territorio europeo. E questo dato è venuto fuori quando si sono cominciate a fare le indagini sull'11 settembre. Non dimentichiamoci infatti che gli attentati alle Torri Gemelle sono stati pianificati in Germania, dalla cosiddetta cellula di Amburgo. Nel 2004 e nel 2005 tutta una serie di attentatori, diciamo di cospiratori, se posso chiamarli in questo modo, sono stati arrestati in Gran Bretagna. Si trattava molte volte di cittadini inglesi. Quindi quello di cui ci si sta accorgendo è che questi gruppi non sono localizzati in una precisa area geografica, ma sono distribuiti un po' dappertutto. Sono i nostri vicini di casa anche. Ma la crisi colpisce anche la prevenzione antiterrorismo, così i paesi in questi ultimi tempi annunciano tagli ai finanziamenti agli uffici dell'ONU. Storielle. Storiacce. Isole sperdute nel Pacifico o grandi e il più delle volte poveri paesi africani. È qui che spesso i terroristi creano inosservati le loro basi d'azione ed è qui che cerca di intervenire il servizio di prevenzione del terrorismo delle Nazioni Unite, anche solo, a volte, regalando biciclette e carta. Ma la crisi economica si abbatte anche sui loro uffici dell'ONU e molti stati annunciano tagli, come ci conferma Stefano Betti, funzionario del servizio prevenzione delle Nazioni Unite. Fino a questo momento era abbastanza chiaro che ci fossero vari gruppi attivi sul territorio italiano per preparare eventualmente attacchi da serrare nelle zone calde come l'Iraq, eccetera. L'arresto di questi due cittadini marocchini qualche giorno fa invece ha allarmato un po' l'autorità pubblica e i cittadini, perché si è visto che noi non siamo soltanto zona di preparazione di attacchi da serrare altrove, ma di attacchi da serrare sul nostro stesso territorio. Dopo l'11 settembre si scoprì il problema della mancanza di comunicazione tra paesi nella lotta al terrorismo internazionale e l'indicazione generale fu un po' anche quella di rendere più fluido questo passaggio di informazioni di intelligence. A che punto siamo 7 anni dopo gli attacchi alle Torri Gemelle? Ci sono delle indicazioni abbastanza contraddittorie. Sicuramente sono stati fatti degli sforzi notevoli da parte di molti stati, specialmente degli stati occidentali e di altri stati nell'Asia del Sud-Est, come l'Indonesia, per facilitare lo scambio di intelligence fra stati, ma non solo, anche per facilitare il contatto fra le agenzie di intelligence e l'autorità giudiziaria. Questo muro di incomunicabilità si è sgretolato piano piano in varia misura. Le grandi democrazie occidentali hanno cominciato a cooperare in modo più sostenuto contro il terrorismo. Ci sono stati dei risultati indiscutibili. Bisogna dire che alcune volte, quando l'emergenza terrorismo cala, l'attenzione al fenomeno in generale cala anche e di conseguenza anche la cooperazione si riduce un pochino, ma poi un successivo attentato rimanda tutto in fibrillazione, la cooperazione continua. Quello che non c'è ancora è un vero rapporto di cooperazione fra i paesi più sviluppati e i paesi in via di sviluppo. Si tratta di paesi in cui spesso i terroristi trovano rifugio. Di che tipo di paesi parla? Cioè Pakistan oppure, non so, paesi africani o piuttosto dell'est Europa? Un po' a tutti i paesi in via di sviluppo, ma mi riferisco in particolare, come lei ha accennato, ai paesi africani, perché non bisogna dimenticare che i nostri terroristi cercano di insediarsi nei nei luoghi dove hanno maggiori possibilità di restare inosservati, tranquilli, sicuri, dove non c'è l'attenzione dei mass media. Sono dei posti sicuramente a rischio, ci sono lacune legislative, e i terroristi guardano sicuramente a questi posti per trovare delle piccole oasi di impunità che appunto non sono considerate con molta attenzione dalla comunità internazionale. Quindi mi sembra un po' di capire dalle sue parole che anche quel giro di vite così forte che dopo l'11 settembre anche nella circolazione dei passeggeri non sia una rete sufficiente a impedire passaggi di persone non gradite. Sono in particolar modo quindi passaporti provenienti da queste aree a dover far accendere dei campanelli? Sì, esattamente, c'è un uso massiccio, sembra, di documenti e passaporti falsi, c'è un grosso livello anche di corruzione in molti stati, non bisogna anche dimenticare questo. Ci sono molti stati con dei confini estremamente porosi che sono oggettivamente indifendibili. Ad esempio, guardi, mi viene in mente alcune missioni che ho condotto diversi anni fa nella Repubblica Democratica del Congo. È un territorio immenso, grande come metà dell'Europa occidentale, per la metà anche di più coperto da giungla. Sarebbe anche assurdo richiedere alle autorità congolesi, tra l'altro coinvolte in una mezza guerra civile, di proteggere in modo ermetico questo confine, diciamo. Quanto all'Italia, alla voce prevenzione, com'è messa? In Italia c'è una grande tradizione di contrasto al terrorismo che risale agli anni 60-70. Questo bagaglio normativo, eccetera, è stato, se vogliamo, trasportato, adattato alle nuove emergenze del nuovo, diciamo, terrorismo internazionale. Quindi l'Italia è sicuramente molto ben equipaggiata dal punto di vista normativo e dal punto di vista degli operatori del diritto, dei magistrati che conoscono il problema, sanno come affrontarlo. Quindi ovviamente rimangono i problemi di monitoraggio completo del territorio, di questi gruppi che sono appunto dei cani sciolti, i problemi rimangono, però l'Italia parte sicuramente con delle basi normative e di formazione del suo personale molto, molto avanzate. Perché però in un capitolo del suo libro lei, tra virgolette, mette il nostro paese a altre priorità, il terrorismo è roba d'altri? Non si riferisce al nostro paese in quanto Italia. Si riferisce al nostro paese nel senso del paese, nei paesi nei quali io mi reco per dare assistenza legale. Ci viene detto che il terrorismo non è una loro priorità, perché siete venuti qui voi delle Nazioni Unite, noi siamo un povero staterello dell'Africa, alle prese con la povertà, lo sviluppo, le malattie eccetera, cosa volete che ci interessa adesso di fare una riforma del nostro codice penale o della giustizia per introdurre certe fattispecie criminose eccetera? Questa è l'obiezione e la risposta è molto semplice. Certo, nel vostro paese ci sono emergenze di altro tipo, ma l'emergenza del terrorismo è anche presente sul vostro territorio, proprio perché non siete sotto i riflettori che i terroristi possono decidere di farvi visita. In questo senso il terrorismo è una priorità di tutti i paesi, incluso le isolette che si trovano nel mezzo dell'oceano Atlantico, come Sao Tomé e Principe, per esempio. Questo chiama in causa anche i paesi ricchi. Se il terrorismo è una priorità internazionale, allora forse la prevenzione passa anche attraverso l'aiuto dei paesi ricchi, non solo attraverso il regalo di biciclette, no? Assolutamente. E bisogna dire che le Nazioni Unite hanno un budget abbastanza significativo e dietro questo budget, dietro le nostre risorse finanziarie, ci sono una ventina di stati occidentali che anno per anno ci finanziano proprio. L'episodio delle biciclette mi aveva colpito. In un determinato paese africano ci chiedevano biciclette per i giudici e per i magistrati per potersi recare giorno dopo giorno al lavoro. Non era tanto necessario avere una conoscenza specifica del diritto penale, ma fare sì che i magistrati andassero in udienza giorno dopo giorno. E visto che i sistemi di trasporto pubblico erano veramente scarsi, le strade non erano asfaltate, eccetera, uno strumento necessario per far funzionare la giustizia penale era la fornitura di una serie di biciclette proprio per i giudici. Ci sono altri aneddoti che potrei raccontare, come il fatto che in un altro paese, sempre africano, dopo la nostra assistenza giuridica, giuridica, questo paese non si muoveva, non adottava un determinato provvedimento legislativo contro il terrorismo, e noi a Vienna cominciavamo a chiederci perché questo succedesse. Abbiamo riscontrato che il progetto di legge non avanzava semplicemente perché le macchine fotocopiatrici del Ministero della Giustizia erano bloccate e non c'era nessuno che le riparasse. Senza macchine fotocopiatrici non si potevano stampare i progetti di legge da distribuire ai membri del Consiglio dei Ministri proprio perché potessero adottarlo. Mi verrebbe da dire che tutto il mondo e il paese, visto che di questi problemi di macchine fotocopiatrici, di mancanza di carta, si lamentano anche quasi tutte le procure d'Italia. Il finanziamento per la lotta al terrorismo si può in qualche modo quantificare? Parliamo di forse 1 o 2 milioni di dollari all'anno complessivamente. Come percentuale della cooperazione allo sviluppo fornita dagli stati in generale è molto piccola. In realtà pochissime risorse sono in realtà destinate a questo problema e passano per le Nazioni Unite. I paesi donatori sono una ventina comunque, la maggior parte dei paesi sono beneficiari. Recentemente, con la crisi economica e finanziaria in atto, lo stesso livello di contributi degli anni scorsi non è più garantito. Avete avuto già qualche comunicazione sul fatto che con la crisi incombente potrebbero essere ridotti i vostri finanziamenti? Senza dubbio, ci sono comunicazioni, ci sono indicazioni che i contributi verranno ridotti. Altri stati sorprendentemente hanno deciso di entrare come contribuenti del progetto, quindi speriamo ancora per 1 o 2 anni di riuscire a mantenere lo stesso livello di finanziamento del progetto.